Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più snervante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera, con gli stessi conduttori però. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. E la puntata di oggi si apre con la storia dei nostri due nuovi idoli. Due nuovi idoli che possono, beati loro, girare, nel senso che non hanno limitazioni, li fanno atterrare, li fanno sbarcare evidentemente. Al momento almeno pare così, non abbiamo notizie recentissime, ci Chi dobbiamo attenere sono? Quelle lette stamattina. Sono, allora, purtroppo non sono io la Debbie in questione, no. Sono Debbie e Michael Campbell, 68 e 58 anni rispettivamente, che sono in pensione dal 2013 e da già. Quel momento in avanti, e già sono fortunati. No, è già questo 58 anni in pensione, che è successo? Bisognerà ragionare su questo. Aspetta un attimo in realtà hanno 71 e 61, adesso non so qua. Abbiamo due notizie contrastanti. Ah, ecco. Comunque sono in pensione dal 2013. Cosa hanno pensato di fare questi due signori che da oggi, come vi dicevo, sono i nostri due idoli? Hanno deciso di godersi un pochino la vita. Hanno cominciato a viaggiare, hanno prima affittato e poi venduto la loro casa, e tutto quello che era dentro è stato stipato in un magazzino, e hanno deciso di godersi la liquidità improvvisamente generata da questa operazione girando in tutto il mondo, approfittando di, si può fare pubblicità? Vabbè, tanto non credo che cambi molto per loro. No, non viaggiano con Amazon, viaggiano attraverso le opportunità offerte da Airbnb. Così siamo stati in 300 città, questa è una storia raccontata quest'oggi dal Corriere della Sera, e sono stati, allora, in realtà la cosa che siamo voluti andare a cercare è se fossero stati anche di recente in Italia, perché magari da qui in avanti questa possibilità sarà loro preclusa. Sono stati a Bari, dove hanno fatto anche amicizia con la proprietaria della casa dove erano ospiti, che ha insegnato loro a fare le orecchietti, ma sono stati anche a Firenze, sono stati anche a Bologna, sono stati anche a Torino. Se volete conoscere qualcosa di più rispetto a questa loro storia, potete raggiungerli sul loro blog, perché poi hanno ben pensato di documentare tutte le loro avventure. Il loro blog si chiama Senior Nomads, e insieme ad Instagram è il mezzo che usano per raccontare questa avventura. Hanno peraltro anche da poco pubblicato un libro, e quindi insomma, beati loro, noi siamo veramente contenti di chi ha questa opportunità di godersi la vita una volta che sì, hanno raggiunto la pensione. Fase devo dire anche un pochino invidiosi, perché invece a noi tocca in questo momento anche qualche limitazione, qualche quarantena. Domani peraltro, Deborah, ne approfitto per dare un'informazione di servizio, se faccio vuoi la agevolare ragazza, faccio la ragazza del ring, esatto, per chi ci segue sul Facebook, ci segue su YouTube, quindi può vedere anche Deborah in tutta la sua beltà, potrà mi copro dal libro, però potrà ora cogliere anche questa anteprima mondiale. Domani con il Sole 24 Ore un instant book dedicato al coronavirus, con tutta una serie di indicazioni, non solo di cronaca, riepilogo di quello che è successo e che sta succedendo, ma anche tutta una serie di indicazioni, le famose risposte dei medici che sono stati interpellati da Nicoletta Carbone nella trasmissione Obiettivo Salute, negli inserti che sono andati in onda durante la trasmissione Uno Nessuno e 100.000. Insomma, abbiamo raccolto un po' tutto. Domani sarà in questo instant in vendita con il Sole 24 Ore a 50 centesimi in più. Tutto sul coronavirus, ahimè, tocca occuparsi di questo, quasi quasi Deborah era meglio occuparsi di fisco, va bene. Il fisco ai tempi del coronavirus in realtà si sta attrezzando pure lui per gestire questa emergenza. Parleremo di lavoro ai tempi del coronavirus. Allora, sul tema dello smart working abbiamo ragionato moltissimo in questi giorni, oggi ci ritorneremo, ma parleremo anche un po' di prospettive delle aziende italiane. Abbiamo invitato questa mattina il responsabile di una grande grande agenzia per il lavoro, che in realtà avevamo pensato di invitare qualche settimana fa per raccontarci un po' come si era aperto questo 2020, quali sono le richieste delle aziende, visto che parliamo tanto della mancanza di competenze, soprattutto digitali, che le aziende lamentano, ma a quanto pare un po' questa emergenza di questi giorni scombina i piani, di investimento, i piani anche di assunzioni magari da parte di molte aziende. Quindi faremo un punto su questo. Ad inizio trasmissione però ci focalizzeremo su un settore molto speciale che sta accusando il colpo in maniera direi quasi drammatica, perché il settore degli eventi è letteralmente azzerato in questa fase, e quindi ci sono tante professionalità che sono impiegate in questo comparto così speciale e che chiaramente chiedono altrettanta attenzione da parte del governo, esattamente come ogni settore economico produttivo. Tutto questo naturalmente, come sempre, potendo interloquire con voi, ci potete raggiungere all'800240024, il numero verde, per intervenire in diretta, oppure mandarci dei messaggi, sms o via WhatsApp al 349-238-6666. Prima di tutto ciò, Deborah, vogliamo dare comunque qualche informazione spicciola nel nostro giornale radio del risparmio? Ma certamente, come posso dirti di no? Drin Drin, edicola risparmio. Sai che io sono appassionata di casa, di arredamento, ed è partito da poco sul digitale terrestre questo nuovo canale che si chiama House and Garden TV, e c'è un reality particolare molto divertente che segue un po' tutte quelle famiglie che sono a caccia della casa dei loro sogni dopo aver vinto la lotteria. Ah, ecco. Quindi perché negli Stati Uniti diventano milionari, la prima cosa che fanno si comprano una casa pazzesca. Ecco perché me ne parlavi, perché esatto, non capivo come mai rispetto alla scaletta realizzata da Marco Lombardo tu mi volessi parlare di questo canale televisivo sulle case e i giardini. Ecco. Perché parliamo di lotteria. Esatto. No, oh, tra l'altro pensavo che lì questi signori raccontano a tutta l'America che vincono la lotteria diversi milioni di dollari e non hanno alcun problema di privacy, quindi firmano tutte le liberatorie dell'universo per mostrare la loro nuova condizione economica. Invece noi abbiamo avuto qualche perplessità da parte del garante della privacy per la nostra futura, perché ancora non è stata attivata, lotteria degli scontrini, che è un altro dei mezzi escogitati per sconfiggere questa terribile amnesia che qualche volta ci coglie e non ci fa dichiarare tutto il dichiarando all'Agenzia delle Entrate. Allora, che cosa ha detto il garante della privacy sulla lotteria degli scontrini? Va bene, fatela. Vi diamo l'ok, il benestare. Attenzione però, non utilizzate il codice fiscale, perché altrimenti diventa una specie di raccolta massiva delle informazioni di tutta Italia, nella speranza appunto che tutti vogliano giocare a questa lotteria degli scontrini, ma potete assegnare a ogni giocatore un codice lotteria. E questa misura, secondo il garante della privacy, è quella efficace per tutelare anche i consumatori e evitare la raccolta massiva. Quindi, come dovremo fare? Se ne parla nel secondo semestre, quindi state tranquilli, in questo momento non c'è urgenza, ma dovremo comunicare all'esercente il nostro codice lotteria, che potrà essere cartaceo o magari anche elettronico, come un codice a barre di quelli che si possono conservare anche sul telefonino, e in questo modo poi con il codice lotteria sapremo se potremo giocare e magari, chissà, vincere alla lotteria degli scontrini. Posso dire che sono leggermente scettico, però va bene. Vedremo se la storia ti darà ragione. È una storia breve, lo sapremo tra qualche mese. Dove eri 20 anni fa esattamente oggi? Al lavoro, a norme e tributi, al Sole 24 Ore. Perché me lo domandi? Perché probabilmente in quelle stesse ore si stavano divertendo un po' di più i tuoi colleghi di finanza, perché si stavano occupando dello scoppio della bolla della New Economy. Esattamente sì. Il 3 marzo di 20 anni fa il Nasdaq, l'indice della tecnologia americana, toccava 4.914 punti, il massimo storico mai raggiunto prima di quel momento, prima di implodere nella settimana successiva. Allora, per tutti quelli che ci dicono: ma perché io sui mercati azionari ci devo stare per un lungo periodo di tempo? Perché nelle settimane successive, nei mesi successivi, chiaramente l'indice crollò in misura molto significativa, ma a distanza di una ventina d'anni l'indice della tecnologia americana, pur nella marcia indietro fatta fragorosamente la settimana scorsa, è intorno agli 8.500 punti. Quindi è di nuovo più che raddoppiato rispetto ai valori di quel periodo, che erano già i massimi, poi ridotti, e poi si è rialzato la testa. E quindi significa che se uno avesse tenuto i nervi saldi, posto che non fosse finito magari tra qualche azione che è stata completamente espulsa dal listino, perché è una società fallita, però a quest'ora avrebbe più che raddoppiato, forse triplicato il valore. Questo, questo volevi dirmi con un giro di parole. Ma sì, esatto, sempre con i miei voli pindarici, come li chiamo io. Noi domani in realtà non facciamo un investire in formati tradizionali perché parleremo di fondi pensione, ma magari su questo tema un pochino potremo anche tornarci. Investire con un raggio temporale di fronte a te piuttosto lungo, che è peraltro l'atteggiamento anche giusto per chi sottoscrive un fondo pensione, e quindi magari cercheremo di fare stabilire una relazione anche fra il tema di stamattina e quello che affronteremo domani. Va bene, abbiamo respirato un momento, ma dobbiamo tornare alle vicende coronavirus anche viste dalla prospettiva due di denari, cioè nostra vita economica e non solo di tutti i giorni. Allora vi ricordo, l'abbiamo già segnalato ieri, ci sono delle nuove scadenze per quanto riguarda la generalità di noi contribuenti. Ad esempio la trasmissione della certificazione unica all'agenzia, che devono fare i sostituti d'imposta, non è più al 7 di marzo, quindi imminente, ma è passata al 31 di marzo. La dichiarazione precompilata non ce la mostreranno, non la renderanno disponibile il 15 di aprile, bensì il 5 di maggio. Il termine per presentare il modello 730 precompilato dal 23 di luglio passa al 30 di settembre. Tutte le scadenze riepilogate anche oggi sul Sole 24 Ore, ovviamente nelle pagine di Norme e Tributi. Comincio ad avvicinarmi al tema del lavoro e ti voglio raccontare che cosa ha rilevato IDP, l'Associazione Italiana dei Direttori del Personale, che ha condotto una ricognizione fra le aziende appunto italiane per capire quale sia stata la reazione messa in campo in questi giorni per limitare il contagio da coronavirus nelle regioni a rischio e anche per non compromettere la continuità aziendale. E allora pare che quasi il 90% del campione delle aziende interpellate abbia affermato che nella sua azienda sono state adottate delle misure per contrastare questa epidemia. Solo il 7% afferma che non sono state adottate misure. Rispetto alle misure messe in atto, il 68% delle persone che hanno risposto affermato che la propria azienda utilizza, guarda un po', lo smart working, seguito dal 50% che ha invece previsto una sospensione parziale dei viaggi di lavoro. Il 48% mette in atto misure precauzionali rivolte ai dipendenti che presentano sintomatologie influenzali, e sempre il 48% la sospensione totale delle attività di formazione in aula. Smart working, telegraficamente, per dirvi che con il decreto legge numero 9 lo smart working in applicazione diciamo agevolata, cioè anche in assenza di accordo individuale, è estesa a tutta Italia e per la durata è possibile ricorrere insomma a questa forma agevolata dal 31 di gennaio scorso fino alla fine di luglio. Questa è la nuova durata e l'estensione, ripeto, territoriale, che riguarda tutta Italia. Non significa che bisogna stare in smart working da qui fino alla fine di luglio, significa che è possibile ricorrere a questa formula agevolata da qui al 31 di luglio. Dicevamo dei viaggi di lavoro che sono stati quasi interamente cancellati in ogni settore, in ogni comparto e con qualunque tipo di destinazione. Il business travel è crollato del 75%, c'è un'altra categoria pure che sta lamentando una grossa crisi improvvisa, vissuta appunto da qualche settimana a questa parte. Parliamo della categoria degli interpreti e traduttori italiani. Ovunque lamentano tutte le associazioni appunto di categoria, si registra una flessione preoccupante degli incarichi professionali, l'annullamento di eventi nei quali è previsto l'impegno di interpreti di conferenza, interpreti e traduttori aziendali, traduttori e interpreti giudiziari, interpreti di lingua dei segni, insomma davvero una crisi che sta riguardandoci tutti senza alcuna distinzione. Gli appartenenti appunto a questa categoria lamentano solamente pensando alla penalizzazione del turismo congressuale, con il susseguirsi di disdette di eventi fieristici, di incontri internazionali di lavoro con relativi scambi di documenti da tradurre, rinunce o rinvii da date da destinarsi, insomma la lamentela corretta ovviamente è ampia, quindi anche loro, come dire, hanno chiesto la medesima attenzione da parte del governo, esattamente come dicevo prima, come per tutte le altre categorie economico-produttive. E noi proprio qui abbiamo utilizzato questa notizia per fare un piccolo approfondimento sul tema delle disdette di eventi. Eh sì, perché tra l'altro aspettiamo proprio per questa sera, forse per domani, un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che probabilmente sancirà lo stop agli eventi congressuali, agli eventi diciamo pubblici per un mese. Abbiamo al telefono Salvatore Sagone, che è il portavoce dell'associazione delle agenzie di eventi, il club degli eventi della Live Communication, riunisce le strutture più importanti del settore. Buongiorno dottor Sagone. Buongiorno a tutti voi, ai radioascoltatori. No, in realtà volevo aprire questo spazio facendoti ascoltare una testimonianza che abbiamo acchiappato al volo di un ascoltatore. Ah, aspetta che è caduto, mannaggia. Antonino da Udine voleva raccontarci, un musicista della Fenice, voleva raccontarci come si sono attrezzati in questi giorni. Allora, adesso aspetta, è caduto, lo recuperiamo. Allora cominciamo subito la nostra conversazione con Salvatore. Che ne dici, Mauro? Ma direi proprio di sì. Allora, abbiamo già ricordato le difficoltà. Poi c'è l'ipotesi appunto di questo stop, probabilmente per tutto il mese di marzo. Sapete qualcosa di più, dottor Sagone? No, in questo momento siamo nelle vostre stesse condizioni, nel senso che attendiamo dagli organismi preposti comunicazioni in merito. Di sicuro sappiamo che il mondo degli eventi, del congressuale, è completamente bloccato in questo momento, cioè non ci sono attività in corso se non quelle di ripianificare e riorganizzare i calendari nella speranza che nei prossimi mesi questa crisi si risolva e che quindi nel secondo semestre, ma anche prima dell'estate, si possa tornare alla normalità, perché se non fosse così sarebbe un vero disastro. Io volevo dare un dato che secondo me aiuta a inquadrare il fenomeno degli eventi in Italia e la loro importanza nel PIL nazionale. Tenete presente che secondo una ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore il 40% delle notte acquistate in hotel è correlata a eventi. Quindi potete immaginare che impatto ha nell'economia. Che domina. Quindi non abbiamo solo la crisi del turismo, ma abbiamo anche la crisi della mobilità legata agli eventi, appunto. Certo. E se consideriamo il 40% degli alberghi, allora dobbiamo considerare il 40% dei ristoranti, dei locali, dei bar, eccetera, eccetera. Quindi è un comparto, è quello degli eventi, per così dire, invisibile, perché non si capisce bene in quali rivoli, in quali mercati ha le sue ramificazioni, però è un comparto che tiene in piedi l'economia italiana. Tra l'altro, Sagone, stavamo proprio in questi giorni con tutta la nostra redazione riorganizzando anche tutti gli impegni di Radio 24 da qui ai prossimi mesi, perché sono stati cancellati Salone del Mobile, Salone del Risparmio, Vini Italy. Esatto, ed è tutto in questo momento in procinto di essere riprogrammato a giugno, che non so come faremo a fare tutto, perché adesso ci sarà una concentrazione in poche settimane di tutti gli eventi. Esatto, ecco, adesso a parte il fatto che noi speriamo veramente che questa situazione di cancellarla più presto, di ridimensionarla più presto, dovremmo sopportarla per tutto marzo, lo faremo e quant'altro, ma mediamente per voi come funziona? È facile poi, una volta che si cancella un'ampia gamma di eventi come quello come sta accadendo in questi giorni, riprogrammare in maniera rapida proprio per non far perdere al settore? Certo. Diciamo che il settore degli eventi, che in qualche modo rappresento, ha una sua grande peculiarità positiva, ossia quella di essere estremamente flessibile, veloce, rapido, una capacità di adattarsi ai cambiamenti in tempo reale, per cui al di là della situazione attuale, che sicuramente non è positiva, io sono convinto che questo settore saprà reagire con anche creatività, oltre che con serietà professionale, per cui si sicuramente avremo nei prossimi mesi, quando questa maledetta situazione sarà risolta, un problema di affollamento nel calendario, ma sicuramente si troveranno gli spazi per recuperare almeno in parte quello che si è perso. Tra l'altro, a livello italiano e internazionale. Sì, perché tra l'altro immagino che la cosa non riguardi solo noi, ma che poi abbia anche un'estensione perlomeno europea. Poi vediamo che cosa succederà di là dall'Atlantico. Il settore forse dovrà anche rivedere un po' le sue previsioni per quanto riguarda le prescrizioni sanitarie, non so, adottare logiche più stringenti, oppure mediamente sì, è sufficiente quello che si fa attualmente? Assolutamente sì, cioè bisognerà semplicemente applicare quelle regole che ci vengono suggerite dalle organizzazioni sanitarie e italiane e internazionali. Quindi anche in questa fase, soprattutto, cioè, premesso che speriamo che si torni a fare ovviamente il più presto, ma in una fase transitoria in cui saranno necessarie delle tutele igienico-sanitarie, allora bisogna fare attenzione, per esempio, a considerare il numero dei partecipanti a ogni evento, la distanza tra l'uno e l'altro, alla sedi, certo. Le sedi, il catering, tutte queste cose che possono creare promiscuità in qualche modo. Esatto, no? Quindi bisogna essere assolutamente attenti, ma le agenzie di eventi si stanno già attrezzando in questo senso per rendere gli eventi anche in una situazione transitoria quanto più possibile sicuri. Le faccio sentire come si è attrezzato Salvatore, prima gli do del lei, poi del tu, insomma Salvatore lo conosciamo, esatto, un giornalista anch'io. Esatto, infatti guarda, vabbè, sai che qua non sappiamo pure noi in piena emergenza come comportarci con i nostri ospiti, ma sappiamo molto bene invece quello che ci vuole raccontare Antonino da Udine, un musicista. Buongiorno Antonino, quindi un lavoratore dello spettacolo, per voi gli eventi sono all'ordine del giorno, e quindi? E quindi io sono musicista del Teatro La Fenice. Il teatro chiaramente, in base ai provvedimenti dell'ultimo periodo, insomma, è chiuso al pubblico, e quindi, come in accordo con il nostro sovrintendente, io faccio parte di un quartetto d'archi, e abbiamo deciso, il sovrintendente insomma con noi ha deciso di farci comunque suonare. Così abbiamo eseguito il nostro concerto, che andava eseguito nella stagione di musica da camera che c'è all'interno, ma invece di eseguirlo nella sala turbine, che è la sala piccola, l'abbiamo eseguito in sala grande, davanti a nessuno, cioè non c'era pubblico se non una telecamera che ci ha ripreso e trasmesso in streaming, in diretta, dal canale YouTube del teatro. Quindi noi mi sembra un'iniziativa eccellente, e peraltro so che anche gruppi altri gruppi musicali si stanno un po' proponendo. C'è un po' un aspetto però che è difficile poi avere degli introiti in questo modo, che non è una cosa secondaria per chi fa il suo lavoro, per gli organizzatori teatrali e così via. Purtroppo Antonino, questo è, ovviamente noi siamo fermi, e quindi certo, anche gli introiti del teatro non sono attivi, però da un punto di vista anche semplicemente culturale, d'immagine, noi ci siamo. Certo. Non siamo scomparsi, ci siamo. Un gesto ad alto valore simbolico sicuramente, Antonino, un'iniziativa che ha intanto questo spirito. Speriamo che in molti vi prendano ad esempio, se non altro come segnale di ci siamo, non abbattiamoci. In qualche maniera internet, il web, anche se la bolla della new economy 20 anni fa è saltata, ma in realtà poi si è espansa con tutte le sue potenzialità e opportunità, e in questi giorni ci sta dando modo di trasmettere, di insegnare a distanza, con i learning, insomma di fare tante cose, anche di fare concerti a distanza. Ma infatti, esatto, un'ultima battuta con Salvatore Sagone, se è ancora in linea. Quasi quasi sembra un'ulteriore declinazione dell'attività di eventi, cioè mandare, utilizzare gli eventi ma con degli specializzati di ripresa a questo punto, perché la tecnologia ci consente di poter trasmettere questi eventi. Infatti questo è un punto molto importante. Faccio però una piccolissima premessa di pochi secondi, perché mi preme far capire alle persone che ci ascoltano qual è l'importanza anche numerica di questo settore degli eventi. Parliamo di quasi 10 miliardi di investimenti che le che vengono fatte in questo settore che coinvolge dai 50 alle 500.000 persone a seconda di quello che si considera, o eventi puramente aziendali o eventi culturali, sportivi, musicali nel loro complesso. Quindi è una voce del PIL importantissima e in ballo ci sono, quindi c'è occupazione e c'è una prospettiva di sviluppo del paese importante. Certo. Detto questo, Veloce, dobbiamo chiudere. Sì, detto questo, il digitale darà sicuramente una mano, una grandissima mano, in modalità di svolgere gli eventi, soprattutto in questa fase, ripeto, ma lo sono già da tempo, perché il fisico e il digitale si integrano in un'unica realtà. L'evento viene vissuto dal pubblico sia nella dimensione reale che in quella digitale attraverso soprattutto i canali sociali. Quindi questo momento ci spingerà il comparto sicuramente a ripensare al modo di fare gli eventi. Grazie a Salvatore Sagone, una staffetta ideale tra gli ospiti, prima di dare qualche informazione su come stanno andando i mercati, così mi pare, Deborah. No, guarda, stanno recuperando, diciamo che l'Europa è più contenta del taglio dei tassi della Federal Reserve rispetto agli Stati Uniti. Allora, tutti i particolari tra pochissimo, perché prima voglio dare il benvenuto a Filippo Saini, Head of Job di InfoJobs. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Buongiorno, grazie per l'opportunità, grazie per l'invito. Allora, con Filippo Saini parleremo tra un attimo appunto delle prospettive di lavoro. È una fase assolutamente inedita, imprevedibile, particolarissima. Andiamo nel dettaglio. Come sapete, il mercoledì è la giornata di Dov'è il nuovo lavoro? Ne parliamo tra un attimo con Filippo Saini. Voi restate collegati, perché adesso parliamo delle borse. I soldi sotto il materasso e basta. Due di denari. Dov'è il nuovo lavoro? Io faccio l'autotrasportatore e ho notato che camion esteri ce n'è sempre molto meno, a parte che c'è meno traffico e in più la quasi totale assenza di autobus turistici. Tranquilli, noi siamo stati i primi e con tutti i limiti, i più bravi, i più corretti a dichiarare la verità, mentre gli altri stati ci hanno giocato sopra per i loro interessi economici, ma ora pagheranno, perché ora si scoprono che già avevano il virus loro prima di noi, come era più logico, tipo Germania o Inghilterra. Ma in compenso noi saremo i primi a riprenderci dopo aver adottato le nostre figure, quindi per l'estate dovremmo essere pronti prima di tanti altri. Purtroppo saremo costretti a fare i controlli su quelli che fino ad oggi ci indicavano come gli untori. Nel caso vi sia sfuggito, guardate che le aziende lamentano la mancanza di competenze che lavorano gratis. Insomma, commenti a tenore coronavirus, ma anche dell'altro, ovviamente un grande classico delle così considerazioni dei nostri ascoltatori. Il problema adesso sarà stabilire se e fino a dove si riesce a dare dei sostegni, degli aiuti, perché se già prima, diciamo, la nostra occupazione proprio non è che brillasse, specialmente per quanto riguarda le fasce giovanili, attualmente è chiaro che tutto rischia di rallentare. Non so se ieri o oggi leggevo di un primo licenziamento da coronavirus, nel senso di una impresa già che aveva dovuto affrontare un brutto esercizio 2019, con il coronavirus praticamente è arrivato un po' il colpo di grazia per quanto riguarda almeno questo dipendente, che nella lettera ha trovato appunto la motivazione del coronavirus come ulteriore elemento così devastante per quanto riguarda i conti aziendali e soprattutto i suoi conti personali. Chissà che cosa ne pensa il nostro ospite di questa mattina. Ringraziamo per averci dato la sua disponibilità, Filippo Saini, Head of Job di InfoJobs, che è il più importante portale italiano di annunci per il lavoro. Dottor Saini, intanto buongiorno e grazie. Buongiorno a voi, grazie a voi. Avevamo programmato da tempo questa chiacchierata con lei perché ci avrebbe fatto piacere che appunto ci raccontasse quali sono i nuovi trend del mercato del lavoro, che cosa raccontano le aziende, che cosa raccontavano un anno fa e con che auspicio si era aperto questo 2020. Diciamo che un po' il coronavirus ha scombinato i piani di tutti. Allora, Saini, ci sono degli scontri in questi giorni da parte dei manager delle risorse umane, troppo presto per sbilanciarsi, che cosa vi raccontano? Stanno già cominciando ad andare a caccia di professionalità nuove rispetto al passato, per esempio adesso ci sarà bisogno di risk manager all'interno delle aziende, pronti a fronteggiare situazioni come quella assolutamente inedita che stiamo vivendo in queste settimane. Allora, chiaramente è un'emergenza che è iniziata soltanto da una decina di giorni, o che perlomeno si è manifestata negli ultimi 10 giorni, è probabilmente troppo breve per poterla analizzare dal nostro punto di vista al 100%. Noi abbiamo sicuramente riscontrato un piccolo rallentamento da parte delle aziende nell'utilizzo degli investimenti che avevano già fatto sul nostro portale. Poi ci sarebbe da capire se è un atteggiamento prudenziale o se magari semplicemente ci sono delle priorità in questo momento di tipo sanitario e organizzativo che hanno messo magari in secondo piano il far partire delle campagne di recruiting o di talent attraction su larga scala. Certo. Chiaramente dai primi contatti, soprattutto con le aziende che investono la maggior parte del loro budget con noi, c'è un momento di domande che sono state poste. Ecco, forse vale la pena fare una riflessione: in Italia la maggior parte delle persone non è occupata in grandi aziende che hanno completamente digitalizzato i loro processi di acquisition. Queste sono aziende chiaramente fortunate perché magari si sono già dotate di strumenti digitali come magari InfoJobs, di strumenti gestionali per remotizzare le prime fasi del contatto con tutti i candidati a target, magari hanno acquistato prodotti che servono per gestire videocolloqui, colloqui da remoto, e quindi in qualche modo non hanno vissuto questa fase di isteria legata al contatto fisico, ma hanno potuto gestire il proprio processo di hiring in maniera sostanzialmente quasi normale, arrivando fino agli ultimi candidati in rosa. Certo, quindi se la domanda successiva fosse stata come state valutando l'applicazione dello smart working di massa resa necessaria dall'epidemia, la risposta è questa. Bisogna fare una riflessione a seconda dell'azienda, della sua dimensione, del territorio in cui è dislocata il comparto. La trovo una risposta estremamente responsabile, perché le aziende italiane sono molto diverse, per cui un'azienda, una PMI che ha magari la produzione industriale non ha le possibilità di applicare lo smart working che per esempio ha una società come la nostra, che già aveva adottato una policy di smart working 2 giorni alla settimana e che quindi non ha avuto nessunissimo problema nel fare un'estensione completa delle politiche di smart working. C'è da dire però che la maggior parte della nostra popolazione è composta di personale di prodotto o di personale IT, per cui abituato al concetto di lavoro da remoto anche completo, magari addirittura non dall'Italia in alcuni casi, però c'è da capire come magari la PMI, che è un po' quello che traina il nostro tessuto imprenditoriale, sarà in grado di reagire, no? E se ha la possibilità di reagire non avendo magari digitalizzato buona parte dei processi. No, stavo guardando anche le domande che ci arrivano e che devo dire in molti casi più che altro ci segnalano le difficoltà dei vari settori. Ad esempio qualcuno estendeva sulla scorta di quanto ragionavamo nella prima parte della trasmissione le preoccupazioni per il settore degli eventi anche a chi allestisce gli stand, anche a chi fa trasporto di persone, i tassisti ovviamente, ma il noleggio con conducente, il noleggio auto eccetera eccetera. Mi chiedevo come una digitalizzazione possa riconvertire rapidamente in qualche modo anche qualche attività che ora si trova un po' con le mani in mano, ecco, è brutto dirlo ma è così. Allora, io condivido una parte di questa preoccupazione perché se ci fossimo sentiti come avevamo pianificato un mese fa, io avrei segnalato tra i settori maggiormente in crescita nel corso dell'ultimo anno proprio per esempio il settore delle PR e degli eventi. Per cui questa novità ha sicuramente sparigliato quelli che erano i forecast, soprattutto delle aziende in questa direzione. Effettivamente tutte le attività che hanno a che fare con la relazione umana, con il front-end, in questo momento probabilmente non hanno la possibilità a stretto giro di digitalizzare completamente tutte le attività. probabilmente assisteremo a un rallentamento in alcuni settori. Benissimo. Immagino settore turistico. Sì, benissimo, mi è venuta male. Benissimo, però, diceva, sai, il mio professore di italiano al liceo diceva va bene prima di darti quattro e poi precisava va bene, è un intercalare. Esattamente, l'intercalare prima del... traffico! Ogni venerdì a Due di Denari torna Il Momento Poetico. Partecipa anche tu, inviandoci il tuo componimento a duedidenari@radio24.it. I versi dovranno trattare i nostri temi: investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. E l'ultima parola dovrà sempre essere traffico. Hai preso carta e penna? Ti aspettiamo. La finanza è poesia. Due di denari. Per gli introiti basterebbe mettere su YouTube e mettere un numero che ha ascoltato il concerto, vuole fare qualche offerta, la fa, come si fanno in tutti i siti di programmi gratuiti, no? Una visualizzazione, un euro, due euro, vabbè, dai. Beh, offerta libera anche magari, perché diventa difficile pagare un biglietto d'ingresso a YouTube. Noi al momento ci stiamo scherzando, ma non è detto che questo ragionamento, invece, cioè perlomeno parlo per me, non prenda una piega molto più seria e professionale. Quindi godersi in remoto anche un bel concerto che ovviamente in tempi normali avremmo visto tranquillamente a teatro o magari allo stadio. Voglio vedere qua allo stadio come funzionerà prossimamente. Se vabbè, le partite di calcio già sappiamo come stanno andando. Che sì, ce sì, beh, c'è un'indicazione totale. Generale che si giocherà a porte chiuse, poi quali partite si giocheranno e quali no, per favore non fammelo, non chiedermelo, che evitiamo cose imbarazzanti. Glisso elegantemente, ma non grisso invece con ancora Filippo Saini, InfoJobs, perché per chi in questo momento sta un pochino Saini a riposo forzato e magari è per sua fortuna nella condizione di non doversene preoccupare troppo economicamente, come può mettere a frutto questo momento di stop per ripensarsi un po' rispetto a quello che è il suo ruolo nel mondo professionale e nel mercato del lavoro? E quindi, insomma, pensiamo un po' a quello che è il nostro curriculum. Come lo possiamo rinfrescare in questo momento, visto che ci possiamo permettere una riflessione sperando che non sia troppo preoccupata? Insomma, questo mese di marzo mettiamolo a frutto. Quali sono i consigli di InfoJobs per così fare una riflessione su noi stessi? Allora, sicuramente la domanda è interessante, perché questo chiaramente io non vorrei essere, come dire, stonato in qualche modo, però potrebbe essere un'ottima opportunità per chi stava pensando di cambiare lavoro o era in cerca di una nuova opportunità, proprio perché la nostra più grande raccomandazione è quella di dare costante aggiornamento alle informazioni che sono inserite all'interno del proprio CV, e magari questa è proprio l'occasione per riprenderlo in mano e cominciare a ripensarlo in un'ottica di cambiamento professionale. Questo è chiaramente un messaggio che è rivolto soprattutto a coloro che ancora non hanno affrontato la digitalizzazione del proprio CV e che ancora non si sono affacciati al mondo dell'online. Sembrerà strano dirlo, però c'è ancora una grossa fetta della popolazione che ancora non si è iscritta a portali come InfoJobs per cercare un'opportunità di lavoro. Ecco, primo consiglio in assoluto è quello, come dire, di fare il grande passo e passare dall'offline, dalla, tra virgolette, passaparola o raccomandazione all'affacciarsi allo strumento digitale. Per chi invece già è a bordo, come dire, è già a bordo di InfoJobs, questa è l'occasione per rinfrescare le proprie informazioni. Le informazioni da sole non si aggiornano, è importante chiaramente imputarle all'interno del sistema e andare a raccontarle nella maniera più esaustiva possibile. Poi ci sono nuovi trend, chiaramente. In un mondo che cambia, dove per le aziende sta diventando importante, per esempio, la capacità di imparare, forse vale la pena cominciare a mettere in evidenza le proprie soft skill, perché tante aziende oggi le abilità cosiddette soffici, cioè quella capacità di relazione, ad esempio la capacità, magari alcune abilità non direttamente connesse al proprio lavoro, risolvere il problem solving, risolvere i problemi, avere capacità appunto relazionale, come diceva Mauro, e magari cogliere l'opportunità per sviluppare uno storytelling personale, quindi occuparsi del proprio personal branding, raccontando proprio come anche attraverso esperienze non strettamente professionali si possono aver sviluppato alcune di queste soft skill. Mi viene in mente banalmente le attività sportive, il volontariato, le attività extracurricolari, i corsi che si sono fatti e sostenuti magari durante un'esperienza di lavoro, che sono proprio una prova di come la risorsa potenziale davvero sia una risorsa aperta, come dire, fenomeni cicli, iterazioni di upskilling, di reskilling. Saini, in questi consigli che lei fornisce sul curriculum mi viene da pensare che allora forse molti curriculum, e voi immagino che ne gestiate parecchi, ne leggiate tanti, su InfoJobs, molti curriculum non siano accurati da questo punto di vista, ecco. Cioè non, probabilmente non sono non aggiornati ma sono anche non accurati. Ecco, questo è corretto, qui ci sarebbe da fare una riflessione su come, no? Su quali sono i punti di contatto per avere informazioni e imparare a raccontarsi, per cui la risposta ahimè deve essere sì, una buona parte dei CV che vengono proposti alle aziende non è scritto in maniera o non aggiornato o addirittura non completa, quindi tante volte i nostri utenti scrivono al nostro customer service e ci chiedono come mai non sono stato preso in considerazione, e tante volte le nostre persone si trovano a dover commentare magari candidature fatte con un CV magari non aggiornato da un paio d'anni. Ecco, il consiglio che noi diamo sempre a tutti in una relazione uno a uno è proprio quella di avere la cura e la pazienza, chiaramente per chi sta cercando una nuova opportunità, di dedicare del tempo al rinfrescare le informazioni, di modo che l'azienda possa avere, come dire, la percezione anche di una certa attenzione e di una certa accuratezza nel raccontarsi. Saini, senta, facciamo finta che il coronavirus non ci sia, che non ci sia stato, anche perché immagino che da d'ora in avanti faremo delle riflessioni sul mondo prima il coronavirus e post coronavirus. Ammettendo che tutto questo non ci sia stato e che avessimo potuto appunto organizzare una trasmissione normale come quella che avevamo in testa, voi avevate piacere appunto di raccontarci quella che era la vostra indagine sui trend del mercato del lavoro per il 2020. Che cosa ci raccontava questo osservatorio prima che arrivasse questo simpatico animaletto microbo virus a così un po' alterarci tutti i programmi? Allora, la prima cosa che mi sento di dire è che voglio sperare che gli impatti di questo coronavirus siano i minori possibili, come dire, pur dovendo essere massimamente realista. Le aziende soltanto un mese e mezzo fa ci avevano raccontato di un approccio abbastanza positivo rispetto all'anno 2020, quindi c'erano alcuni segmenti, mi vengono in mente le aziende, diciamo le medie, tra i 250 e 500 dipendenti, in larga parte ci avevano raccontato di politiche assuntive abbastanza importanti per il 2020. E poi, come dire, sono arrivati degli spunti che erano assolutamente interessanti, perché poi c'è da dire, le nostre aziende sono aziende tendenzialmente digitalizzate, positive, già inserite, come dire, nel futuro. Però hanno raccontato dei trend che da un certo punto di vista ci erano anche stupiti, perché mettevano sostanzialmente al centro l'essere umano, quindi prendevano coscienza del fatto che il digitale è certamente uno strumento ma non è un fine, e che quindi, come dire, al centro sta l'essere umano con assolutamente tutto il valore che può portare ad un'azienda che si trova a dover competere in uno scenario particolarmente mutevole. Quindi questo è anche un po' un cambiamento di ruolo dei dipartimenti HR, che sicuramente si pongono come catalizzatore del cambiamento, e questo chiaramente va dai fenomeni necessari di reskilling del personale che già è a bordo in un mondo dove le hard skill diventano vecchie, no? In pochi anni, sì, il mondo cambia in pochi mesi quasi. Sì, si sta anche accorciando, ma anche spunti per esempio su come sia importante cominciare a pensare ad un organigramma un pochino più liquido, no? Dove gli obiettivi aziendali vincono sull'orario di lavoro, esatto, infatti. Immaginiamo questa riflessione alla luce della grande prova generale di smart working che abbiamo fatto in queste due settimane. Secondo me ci avevano visto giusto, avevano guardato avanti. E poi chiaramente un altro spunto che si è arrivato è la necessità di dotarsi di politiche di employer branding per attrarre i talenti. Ci sono alcune competenze, ci sono alcune professionalità che in Italia sono rare e quindi le aziende se le contendono. Sapersi raccontare diventa importante per attrarre i talenti. E poi formiamole anche un po', perché abbiamo più volte detto che comunque anche le aziende ci devono mettere un po' del loro, ovviamente, senza aver paura che poi una volta formate vadano da un'altra parte, e lì metteremo in campo tutte le carte necessarie per trattenerle, queste professionalità che abbiamo formato. Caro Mauro, allora io devo sicuramente mi devo iscrivere ad un programma che mi insegni a fare le slide, perché non le so fare. Sì. E quindi insomma mi devo digitalizzare da questo punto di vista, che sai che la mia grande lacuna, sull'inglese stendo un velo pietoso, poi che cos'altro? Tu cosa farai invece? Come mi impiegherai queste due giornate in cui non c'hai niente da fare? Devo dire che purtroppo invece ho delle giornate abbastanza intense, ma così temo anche per te, cara Le Deborah. Nostre sono più intense del solito, non so perché, solo a guardare i mercati qua dobbiamo essere invece molto molto reattivi. E allora noi ringraziamo Filippo Saini, InfoJobs, infojobs.it è il sito dove appunto si incontrano domande e offerte di lavoro, e tutti i mercoledì come sempre dov'è il nuovo lavoro a due di denari. Noi torniamo domani con i fondi pensione, ma intanto dovremo dedicare sicuramente una puntata anche a tutte le orchestre da ballo, perché qua ci stanno arrivando un sacco di messaggi anche da loro, ma poveri. Sai che sono sensibile alla musica. Sì, a presto, buona giornata.